La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo lunedì inizio settimana 14 marzo, sono le 16.31 prima e 50 secondi, sono in diretta dagli studi di Radio 24 di Milano e vi ringrazio per l'ascolto. Come sempre vi ricordo l'indirizzo, perché la trasmissione di oggi, come tante altre come sapete, nasce esattamente dalla segnalazione di un ascoltatore che abbiamo nostro ospite. Quindi per intervenire e per proporre temi di trasmissione o la vostra storia come emblematica di un caso che riguarda molti o i più, l'indirizzo è la versione di Oscar @24.it. Per intervenire oggi come sempre il numero è 800 24 00 24, per gli sms 349 238 66 66. Di che cosa parliamo oggi? Della scoperta che fa un nostro ascoltatore volendo decidere in maniera informata a che scuola iscrivere il figlio che l'anno prossimo approderà alle elementari, approfittando di un canale di informazione nazionale messo a disposizione dal governo, dal pubblico, per la prima volta in questo da fine 2015, quindi nel 2016, e cioè di un sito si chiama www.cercalatuascuola.istruzione.it, che regione per regione, comune per comune, scuola per scuola, informa dei rapporti di autovalutazione che questo sito, il Ministero del MIUR, mette a disposizione perché inoltrati da ogni scuola. Cosa positivissima, mi avete sentito dire molte volte negli anni che esattamente di questo dovrebbe trattarsi per ogni aspetto della vita pubblica, per esempio per l'orientamento, per le scelte di orientamento delle famiglie su i tipi di istruzione secondaria e terziaria da dare ai propri figli. Dovrebbero esserci delle piattaforme pubbliche che raccolgono i dati alla fine di ogni ciclo, quant'è il rapporto percentuale di chi diplomato o laureato per qualunque tipo di laurea triennale o biennale ottiene poi un posto di lavoro, entro quanto tempo, con quale retribuzione media, per dare un'idea alle famiglie di che cosa abbia senso scegliere o quantomeno indirizzare, ragionando con i propri figli, come corso e come specializzazione di studi. Non lo abbiamo per questo aspetto, non lo abbiamo come sito della sanità pubblica rapporti che consentano di farsi un'idea comparata per tipo di patologia, tipo di operazioni, successo delle terapie e così via. Io credo che dovremmo un giorno, spero presto arrivarci, dovrebbe essere tutto digitalizzato per consentire delle scelte basate non sull'economia delle relazioni o sul caso, ma su indicatori pubblici che dovrebbero essere da una parte alla base anche dell'assegnazione delle risorse per premiare chi ne ha di migliori, e dall'altra dovrebbero consentire poi ai cittadini di fare in maniera ragionata le proprie scelte. Allora, vi vogliamo raccontare esattamente che cosa ha scoperto questo genitore. La domanda che io vi faccio è per capire se quanti di voi utilizzano questo strumento per valutare e scegliere le scuole dei propri figli, cosa ne pensate e che cosa pensate soprattutto di quello che vi racconteremo oggi. Allora, per raccontarci che cosa emerge dalla consultazione di questi rapporti di autovalutazione delle scuole italiane, stiamo parlando sia di scuole del ciclo delle primarie che delle secondarie, abbiamo appunto chiamato in trasmissione, molto lo ringrazio sia della lettera che della disponibilità di darci il suo tempo oggi per mettere in pubblico la sua esperienza, appunto questo genitore che si chiama Flavio Gaio. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio Oscar e grazie dell'opportunità. E per un commento, tra virgolette, istituzionale o semi-istituzionale, ma insomma di operatori della scuola, abbiamo scelto il vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi, quindi i dirigenti scolastici, ed è con noi appunto Mario Rusconi. Grazie anche a lui di darci un po' di tempo oggi pomeriggio. Buonasera a tutti voi. Allora Flavio, iniziamo con raccontare a chi magari questo strumento non lo conosce com'è che hai deciso di consultarlo e che cosa hai scoperto e perché. Ma allora, diciamo che non sono mai stato, né io né mia moglie, convinto che la scelta dell'istruzione dei miei figli dovesse essere basata sulla scuola più comoda o più vicina a casa, ma che ci dovesse essere un'analisi di quella che era la proposta formativa, la struttura e quant'altro. già un anno prima dell'iscrizione di mio figlio mi sono affacciato al mondo delle scuole elementari o primarie, come si chiamano adesso, per indagare su quali fossero le proposte in zona. Dove abiti? Io abito a Castelnuovo Primo, che è in provincia di Milano, zona Malpensa. Sì. Nel fare questa valutazione ho accolto con grande piacere l'idea che ci fossero finalmente questi rapporti di autovalutazione. Un'autovalutazione non è il massimo per valutare un'entità, però comunque è già un primo passo di paragonabilità. Tra l'altro ci sono degli aspetti che sono basati su test che sono trasversali, quindi mi avrebbero comunque permesso di comparare le soluzioni possibili. Nel fare questo ho scorso quelle che erano le pagine di 5 o 6 rapporti che ho scaricato e mi è saltato subito all'occhio, perché tra l'altro è la pagina 8. Quindi tu sei andato su Lombardia, hai scelto il tuo comune e hai visto le scuole per primaria. Esatto, ho scelto nella circondare nei comuni limitrofi quali fossero le scuole possibili. E ho scaricato tutti i rapporti e ho fatto delle comparazioni. Su tutte però è saltato all'occhio un punto interessante, che era appunto pagina 8, quindi è saltato all'occhio quasi subito, che era il punto 1-3B, per chi avrà voglia di andare a vedersele. Aspetta, io devo dare un'indicazione di servizio. Se andate adesso, e noi è da stamattina che ci stiamo provando, stamattina il sito, lo ripeto, www.cercalatuascuola.it, stamattina funzionava regolarmente, tant'è che anche noi ci siamo scaricati alcune tabelle e vi parlerò di alcune cose che ci hanno colpito, per esempio del Lazio, della Campania, di Roma e di Napoli in termini comparati, e se non che da metà mattinata fino ad adesso il sito c'è, ma se voi aprite in una qualunque regione, in un qualunque comune, e chiedete rapporti di autovalutazione della scuola, da metà mattinata ha smesso di funzionare. Quindi ve lo dico subito, perché appariranno degli schermi pieni di, però insomma, il sito è caduto, quindi verificheremo nei prossimi giorni se viene ripristinato. Funzionava fino a metà di questa mattina, adesso non funziona, è inciso e continua, scusa. Figurati, dicevo che mi saltava dall'occhio questo capitolo, l'1-3B, che parla di edilizia rispetto delle norme di sicurezza, perché nel punto 1-3B-1 riporta quelle che sono le certificazioni. Ora, non è difficile rendersi conto che praticamente il 78,7% degli edifici scolastici nazionali è privo o solamente parzialmente coperto dalle certificazioni di sicurezza. Quindi il 78,7% degli edifici scolastici non è in regola con i previsti requisiti di sicurezza. E per non farne una solita questione nord-sud, la tanto decantata Lombardia, ma parliamo della provincia di Milano, ha quasi il 18% di edifici che ne sono completamente sprovvisti e il 43,4% che ne sono solo parzialmente, che poi questo parzialmente provvisti non si sa che cosa voglia dire, cioè se ne manca una questione di forma o se manca nella sostanza gran parte della certificazione. Per un totale in provincia di Milano del 61,1% degli edifici non completamente certificati. Se si procede poi alla tabella successiva, che è quella che parla di sicurezza degli edifici e superamento delle barriere architettoniche, che è un tema che io credo sia anche di civiltà, sì, il 67,2% degli edifici in provincia di Milano non è completamente a norma da questo punto di vista, è solamente parzialmente adeguato, e addirittura c'è uno 0,1% a livello nazionale, che comunque parliamo di probabilmente centinaia di scuole, che è completamente inadeguato. Ecco, questi dati a me hanno fatto molto pensare, e poi ho riscontrato che anche nella nostra zona, nella mia zona, non tutte le scuole avevano tutti i certificati pronti. Questo credo che sia un punto da dover considerare, visto che la consideriamo sempre la sicurezza dei figli molto importante, ma poi anche di fronte a certi dati che ci vengono messi in mano, molta gente non va a vedere. Mi faceva anche pensare un po' all'arroganza con cui un istituto pubblico mettesse in maniera così plateale la propria incapacità di gestire la sicurezza degli stabili scolastici senza farsene un problema, né centralmente, ma neanche in periferia, cioè anche i comuni, gli amministratori dei comuni, non si pongono il problema che gli edifici che per la scuola primaria e primaria, secondaria e primo grado sono a carico del comune risultano in gran parte sprovvisti di questi certificati. Faccio altri due esempi delle tabelle che siamo andati a consultare aggregate per città e regionali. Questa mattina, fino a che, ripeto, il sito funzionava, pensate che a Roma, unendo insieme i rapporti di autovalutazione delle scuole secondarie di secondo grado, il 41,6% a Roma è privo di qualunque certificazione rilasciata. 41,6. Il 41% ha certificazioni rilasciate solo parzialmente e solo il 17,3% di tutti gli istituti ha tutte le certificazioni rilasciate. E pensate che incredibilmente Roma sta messa peggio che Napoli. Uno potrebbe pensare istintivamente al contrario. Invece no, perché quelle che non hanno, in questo caso sommando primaria e secondaria, mentre i dati di Roma erano solo la secondaria, sommando a Napoli le scuole primarie e secondarie, il 31,2% non ha nessuna certificazione rilasciata, a Roma era il 41,6%. Poi il dato per certificazioni parziali è uguale a Napoli e a Roma, cioè di poco superiore al 41%, e comunque, come vedete, sommando chi non ha certificazione e chi ce l'ha solo parziale, a Roma siamo addirittura all'82%, mentre a Napoli siamo comunque, ahimè, a un preoccupante 73%, mentre ad avere tutte le certificazioni rilasciate a Napoli, sommando le scuole primarie e secondarie, è il 27% dei casi, mentre a Roma è solo il 17% dei casi. Tanto per dare un'idea di come, appunto, la faccenda non è nord-sud, c'è un coefficiente di distribuzione della nessuna certificazione rilasciata, di tutte le certificazioni rilasciate, che descrive un'Italia a macchia di leopardo, nel quale evidentemente chi si è occupato di questa questione, stiamo parlando innanzitutto della sicurezza degli edifici, cioè dei tetti che cascano sulla testa, per capirci, e del rischio che questo avvenga, ma non solo questo, evidentemente che disegna una diversa sensibilità, vedremo di chi, e lo chiederemo in questo poi al vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Comunque percentuali, io dico, abbastanza spaventevoli, comunque preoccupanti, prendetela come volete. Allora, ti ho interrotto, Flavio, vai avanti. Questo quanto riguarda il RAVE, quello che il RAVE espone. Poi io ho avuto esperienza diretta per l'asilo che stanno frequentando i miei figli, su un altro argomento importante, che è la presenza di gas radon, che si stratifica soprattutto nei piani interrati, e ho riscontrato che esiste una legge del 2000 che impone per legge la misurazione del gas radon in tutte le scuole dell'obbligo in cui ci siano piani interrati, che direi che è la totalità. Questo argomento, quando viene posto ad amministratori, uffici, tendenzialmente cade nel nulla, cioè non se ne ha visione. Il radon, diciamo, è un gas radioattivo di emanazione naturale, per il quale però c'è un'evidenza scientificamente provata di cancerogenità sulla base appunto di studi epidemiologici sugli esseri umani. Cito solo un dato: l'esposizione al radon presente nell'area dell'abitazione aumenta il rischio di contrarre un tumore polmonare, per alcuni paesi si è stimato essere responsabile di una percentuale che va dal 3 al 14% dei tumori polmonari, quindi una percentuale comunque significativa, di cui l'obbligo di legge di testare le emissioni negli edifici scolastici. Questa cosa riguarda soprattutto, poiché l'emanazione naturale dal terreno, appunto i piani bassi. E cosa hai scoperto su questo, Flavio? Ho scoperto, per esempio, che la legge del 2000 è stata accolta dalla Regione Lombardia solo nel 2009, con un po' una linea guida uscita nel 2011. Nel frattempo, Regione Lombardia, visto che la legge del 2000 dava tempo, mi sembra 2 anni per adempiere a questi obblighi di misurazione, era uscita solo con 9 anni di ritardo, pregava di fare quanto prima. Però, nonostante noi abitiamo nella zona a più alto rischio praticamente nazionale, sì, presenza di gas radon, nonostante questo, amministratori, gestori degli edifici anche dal punto di vista della scuola, uffici interni, nessuno praticamente ha contezza di questa problematica, non si sa se siano state fatte le misure, a volte vengono posti dei divieti all'uso dei locali interrati ai bambini, ma non si giustifica bene qual è il motivo. Io ho sempre l'impressione di 2 cose. Il primo, quello che non capisco come logiche di questo tipo a livello nazionale non vedano il MIUR, in questo caso, creare dei registri appositi e far sì che le strutture adempiano agli obblighi. Ma dall'altro io ho sempre l'impressione che sia un non adempiere, perché di fronte a una conoscenza dovrebbero fare degli interventi che non sono in grado di fare. La ignoranza risulta meno grave, quindi si preferisce ignorare piuttosto che accertare il problema e poi non poterlo risolvere. Ripeto, una sensazione, però. No, certo, non sempre più fondata. Non si può che avere su questo che sospetti, dubbi, ipotesi, opinioni. Proprio per questo, però, dopo il minuto di pausa per l'informazione stradale, sentiamo l'opinione del vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Mario Lusconi. Tra un minuto. La la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, con noi lo avete sentito Flavio Gaio, un genitore che per verificare in base a dei parametri più o meno oggettivi, il più o meno implicato dal fatto che i rapporti, la cui consultazione è pubblica da quest'anno su un sottosito del MIUR, sono i rapporti di autovalutazione dei singoli istituti. Comunque è andato a tirarsi giù un po' di dati comparati delle scuole dei comuni limitrofi dove abita, e quindi per decidere dove mandare i suoi figli l'anno prossimo alla prima elementare, e ha scoperto delle percentuali raccapriccianti, innanzitutto di mancanza di certificazione di sicurezza degli edifici che vi abbiamo raccontato. Chiediamo al vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Mario Rusconi, questi dati. Primo, quanto sono attendibili, visto che sono autovalutazioni? Secondo, che cosa implicano? A chi si deve la responsabilità? Com'è pensabile di affrontare percentuali così smisuratamente elevate? Prego, Rusconi. Allora, guardi, sono circa 20 anni che esiste una disposizione di legge che ricorda, diciamo, tutte le incombenze che gli enti locali, vale a dire comuni e provincia, che sono proprietari, il comune per le scuole dell'infanzia, elementari e medie, la provincia per le scuole medie e superiori, tutte le incombenze a cui devono, diciamo, rispondere, a cominciare dalle suppelletti, gli immobili, eccetera, e soprattutto le condizioni di sicurezza. Cioè, in poche parole, è l'ente locale che deve intervenire. Naturalmente, che è successo in questi 20 anni? 20 anni fa fu calcolato in 40 mila miliardi di lire, quindi grosso modo 20 miliardi di euro attuali, che sono rimasti tali e quali, diciamo, la cifra che doveva essere impegnata per rimettere le scuole italiane a norma. Parliamo delle scuole appunto dall'infanzia fino alle scuole medie superiori. Ora, questa incombenza di legge che sta a capo dei comuni e delle province è rispettata fino in fondo dalle scuole non statali. Perché? Perché le scuole non statali altrimenti chiudono. Arriva l'ispettore, capita spesso, verifica che manca un maniglione di sicurezza, manca lo scivolo per gli handicappati, chiude la scuola. Quindi una scuola, una scuola privata ma pubblica accreditata, se avesse percentuali così, chiude. Sì, sì, le scuole appunto non statali, quelle che propriamente noi diciamo private, devono chiudere, quindi sono costrette naturalmente a intervenire. Quelle di Stato no? No, la scuola dello Stato, lo Stato nei riguardi di se stesso fa sempre, come dire, un selfie autogiustificativo, se vogliamo usare delle metafore attuali, cioè dice sì, va bene, l'ente locale dovrebbe intervenire, però il fatto che ci sia l'amianto, il radon, io parlo anche di cose ancora più pericolose, mi permetto, certo, di dire, per esempio, certo, gli impianti elettrici, certo, che sono pericolosissimi in molti casi. Nella mia carriera di preside ho trovato persino impianti elettrici con la 370, manco sapevo che esistesse, come io insegnavo latino e greco prima di fare preside, e naturalmente l'ente locale cosa fa? Preferisce, permettetemi la chiarezza e lo sfogo che facciamo da 20 anni, la festa dello gnocco, la festa della patata rossa, la festa XYZ, l'estate romana, milanese, e quelli sono voti, sa, e quelli sono voti. Beh, certo, infatti quelli sono voti, mentre invece l'opinione pubblica da questo punto di vista si accorge di queste questioni, come appunto il genitore di Castano Primo, solamente quando hai figli in questa situazione. Noi presidi da 20 anni diciamo queste cose, tra l'altro il preside è responsabile della sicurezza della scuola, naturalmente non dal punto di vista del radon, non è che il preside possa andare con una pompa e togliere il radon, però è responsabile nel senso che la legge dice, ed è giusto, che deve segnalare all'ente locale, se nel caso alla magistratura, tutte le situazioni che possano mettere a rischio la salute degli studenti e anche degli insegnanti e dei bidelli. E questo avviene tutti gli anni, cioè tutti gli anni noi facciamo segnalazioni alla provincia, al comune, chi più ne ha più ne metta, mandiamo alla prefettura, eccetera, e da 20 anni non succede nulla. Viva la sincerità, però è un'amara sincerità, cari radioascoltatori, perché per il resto poi i soldi si trovano. Qua si parla della sicurezza dei vostri, barra nostri, che miei, figli, però i 20 miliardi su questo non si sono trovati. Sapete che il governo ha impegnato un aumento dei cantieri pubblici, eccetera, eccetera. Ma l'ordine di grandezza è questo. Vedete a cosa servono le piattaforme digitali? Ripeto, questi sono poi rapporti di autovalutazione su cui il beneficio del dubbio è aperto. Stiamo un po' come la pensate alcuni di voi. Livia da Milano, prego, Livia. Buonasera. Buonasera. Io sono un'insegnante di scuola elementare, sì. Volevo parlare di un altro aspetto dell'autovalutazione, della scelta di un istituto, sì. Perché ovviamente questo qui, vabbè, è un aspetto importantissimo, purtroppo noi abbiamo le scuole che ci cadono addosso, magari ci portano la lima ma con la scuola pezzi, fa niente. Io volevo parlare del fatto di, appunto, questo genitore dice io volevo informarmi non tanto la scuola più vicina quanto quella più idonea perché mio figlio possa apprendere e imparare. Lui si è soffermato sulle questioni di sicurezza, ma ha detto esplicitamente fin dall'inizio anche per l'offerta formativa, ovviamente. Esatto, per l'offerta formativa. Però l'autovalutazione sull'offerta formativa con che criteri viene fatta? Prima di tutto sulle prove Invalsi, che tengono conto soltanto in minimissima parte del target di utenza. E poi, diciamo, non lo so, puoi fare i voti che escono, ma i voti chi li dà, come li dà, con quali criteri. Poi il problema non è tanto, io ho insegnato per 17 anni in periferia, in una periferia che era veramente, cioè, come essere in frontiera, in prima linea. Certo. Con alunni rom, con alunni... Quindi problemi di integrazione sociale, di basi di partenza... E anche di povertà culturale, certo, e sociale. Certo. E lì ho lavorato benissimo, ho imparato veramente un mestiere, delle maestre stupende, bambini che non sapevano manco, cioè tu gli devi insegnare a scrivere scopa o scure, ma non sanno cosa sia una scopa o una scure. Certo. Sono per cui, cioè, veramente. Quindi, in quel caso, da... i voti. Cioè, ma voglio dire, lei ci sta dicendo in generale: attenzione, perché l'autovalutazione ha un problema di attendibilità. Di partenza. Cioè, certo. Noi dobbiamo fare una programmazione personalizzata, giustamente, perfettamente, questo io sono d'accordissimo. Una programmazione personalizzata. Se uno non sa parlare l'italiano, non posso pretendere che certo. Poi dopo mi sappia argomentare chissà che cosa. Allora, io lì ho visto veramente tantissimo lavoro e si riesce a insegnare bene, ma Maria Montessori insegnava ai bambini handicappati prima, i suoi metodi li ha insegnati, li ha sperimentati sui bambini handicappati, cosiddetti handicappati. No, noi ogni tanto facciamo trasmissioni, ne ho fatto una a fine anno, adesso tra poche settimane facciamo altre, di casi in cui proprio tentiamo di documentare come nella scuola pubblica il criterio da seguire sia quello che dice lei, ed è un criterio però molto affidato alla sperimentazione e all'autorganizzazione dal basso, e poi i problemi dell'inclusività nel nostro paese nascono da questi. Mi dispiace per i tantissimi altri ascoltatori, Nicola dalla provincia di Caserta, Carlo da Roma, Alberto Gianni, eccetera eccetera, purtroppo il tempo è esaurito. Io invito tutti ad andare sul sito, sempre che torni in funzione, che spero di sì, perché da oggi non ha funzionato più, e come vedete ecco i problemi che dobbiamo fronteggiare nel nostro paese, non solo le liti politiche, questi sono più importanti. Continuate su Radio 24, appuntamento alle 8:15 di mattina con me, Alessandro Milan, attenti a noi due.